mira e ben che pensi che ragioni frate confusa e muta perché sei divenuta io temo oddio temo dell'idol mio il periglio vicino vedrai Rinaldo volare in braccio alla diletta sposa e tuo sarà sulla mia fe riposa.